140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola agli spettacoli, protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Civica Scuola Paolo Grassi, Milano. Dediche e manie. Dopo 3 anni un nuovo album per Biagio Antonacci, 13 canzoni sulla bellezza nelle difficoltà e il coraggio della vita. Dietro ogni cammino, no? Anche i cammini quelli più mistici che si fa, no? Che si fanno, i percorsi della vita, le fatiche, i no, nascondono sempre poi una bellezza a volte che ti stupisce, grazie a Dio. Cioè ogni sforzo poi c'è. Ha dietro sicuramente una cosa bella, e questo è un po' il concetto di questo album, progetto, non so più neanche come chiamarlo, se chiamarlo CD, se chiamarlo album, progetto. Comunque, dietro questo Dediche e manie c'è una sorta di speranza, nel senso c'è è un inno alla vita, è un inno alla manifestazione positiva, e quindi ritengo che ogni uomo, ogni essere umano possa scavalcare quello che vuole, possa riuscire a superare per ottenere quello che vuole, che è meglio, così è detto, è meglio. In mezzo al mondo, io te. In mezzo al mondo, io te. In mezzo al mondo, due storie forti, la rabbia e il tempo, e io senza sapere chi sei. So che mi contaminerei, io senza sapere chi sei. La voglia come sa parlare, la voglia come sa aspettare te. Io ho guardato quello che ti scrivono i tuoi fan sulla tua pagina Facebook. Sì. Tu hai anche lanciato l'hashtag Due Storie Forti, chiedendo ai tuoi fan, alle persone che ti seguono, delle storie di forza. Io ne ho lette alcune. Bestiali. Incredibili. Bestiali. Cercano in te la forza, il messaggio positivo. Beh, ma in tutta la musica noi cerchiamo, io stesso cerco nella musica la forza, no? I miei fan lo fanno con me, lo fanno con altri artisti. Cioè, la musica è un regalo, dai. Parliamoci chiaro, io ho avuto una grande fortuna nella vita, ho avuto il regalo di poter comunicare ciò che pensavo. Di conseguenza c'è chi ascolta questa energia e la fa sua e crede che ci sia in queste parole una speranza, perché se qualcuno le dice, le pensa, vuol dire che può essere, che può esistere. È una cosa fisica, le canzoni non sono social, cioè nel senso non sono comunicazione effimera o inutile, non è riempire una pagina di like. La musica è la musica e resta per generazioni, e ai miei concerti vengono le figlie di persone che sono cresciute con me, capito? E a volte portano anche i figli piccoli, quindi pensa che cosa magica che entrare in una famiglia con la musica è la cosa più difficile in assoluto. Tu parli a più di una generazione, sì. Anche se ti sei concesso una cosa che a me ha fatto molto ridere, l'audiocassetta. E certo. Quindi un po' di nostalgia, un po' della generazione over 40. Ci tieni a quella cosa lì, eh? Ci tengo molto, perché la vita analogica che io ho sempre sposato e amo, io sono un analogico, non sono un digitale, però uso il digitale per essere più veloce, no? Per comunicare. Se non facessi l'artista, credimi, non avrei, secondo me, social. Il social è un po' un cavallo di Troia, se posso permettermi, cioè entra nella tua casa, ok, e poi crea i disastri, spesso nelle nostre case. Ci si inventano vite che non sono le nostre, si frequentano ambienti virtuali, capisci? C'è gente che sta delle ore di notte a frequentare vite che non sono le proprie. Sono cose assurde queste, non esistevano prima, no? Prima si dormiva o si andava a bere. Oggi invece ci si tiene tutto dentro e si percorrono strade che non sono le tue e si perde la personalità. Quando perdi la personalità hai perso la coscienza, secondo me. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Biagio Antonacci. Noi ci ritroviamo tra un'ora con RadioTube.